Yeah. sempre qui all'ascolto di Radio Transizione di Pasqua. Ettore, cosa dici di questa festa? È andato un po' male, però per le persone che ci sono va benissimo. E voglio dire una cosa a tutti: stai free, stai rebel. Evviva Ettore! Insomma, perché è andata male? Sta andando benissimo, Ettore. Perché dici così? La prossima volta meno francavillari e più stranieri. Più tutti. La prossima volta faccio una cosa ancora... Ma sempre meglio, andiamo sempre meglio. Sempre meglio, specialmente per il primo e i giovani. Vi voglio ringraziare i ragazzi di Torino, del centro sociale di Torino, di Villa Piana, Cosenza, Ioggi, che sono sempre amici e rispettano l'amicizia. Rispetta chi ti rispetta. Libertà per gli ultra, sempre. Tutto. Cos'è? Mi hai tolto Catanzaro? Merda. Evviva! È Reggio peggio, sì, c'è un nudo, diciamo che qua ne arriva anche una denuncia da Reggio, ma non fa niente. Grazie per la radio, anzi, ringraziamento per la radio, questo collegamento, questa opportunità, però non si mi cusenza. Ma facciamo un coretto finale, un coro finale di Cusenza. Un coro finale, io per piacere. Per questo dobbiamo intervistare tutti i resti della comitiva di Cosenza. Li vado a chiamare. E vai a chiamare, vai. Ci tengo. E quindi siamo sempre qui all'ascolto di Radio Transizione di Fase. Qua dicono che devo intervistare un'altra persona. Insomma, questa festa, che cosa ne dici? Come la vedi? Allora, io innanzitutto devo dire che faccio parte della concorrenza, perché io lavoro per un'altra radio. Lei zitto, che qua ci sono conflitti di interesse. Io lavoro ogni domenica per un'altra radio, quindi io non so di cosa si occupi questa radio, non l'ho mai sentita. Ma ti possiamo mandare a fanculo? Sì, è in diretta. Ok, vai a questa fanculo. È fuori onda radio. Ma stai zitto, stai no, zitto. A parte gli scherzi, è un grande piacere qua essere in diretta su Transizione di Fase. Che come ha scritto Ettore stasera, è cambiata la serata, quindi c'è Lupino contro i Bad Manners. Ed è su Radio Transazione di Fase. Noi siamo trans, ricordalo, siamo trans. Siamo tutti trans. E mi dispiace che la diretta sia iniziata un po' tardi. Perché problemi tecnici, non è colpa nostra. Problemi tecnici, però sta andando alla grande la serata. Siamo in un numero indescrivibile, che stiamo parlando forse 4 o 5. Meglio pochi ma buoni. Meglio pochi ma buoni. E ci stiamo divertendo un sacco. Devo dire che dovrebbero essercene di altre di queste serate, però magari senza il taluzzo. Ok, grazie. E vi ricordo, stanno arrivando, mi dicono una notizia formidabile, stanno addirittura arrivando i ragazzi della curva, quindi fra poco avremo un fantastico coro della nostra curva. Quindi qualcosa di veramente straordinario da ascoltare con grande attenzione. E intanto vi ricordo sempre che siete all'ascolto di Radio Transizione di Fase, la web radio libera e indipendente. Ed ecco dunque che Ettore ci porta. Che fantastica cosa! Ecco qua gli ultra! Allora ragazzi, siamo qui a questa festa dello Scataparty terzo volume. Insomma, io ho chiesto a Ettore in ginocchio di far ascoltare a noi. In ginocchio mai! Di farci ascoltare un bel coro della nostra bellissima curva. A voi ragazzi! Allora ringraziamo gli Ultra Cosenza. E ora sempre da Radio Transizione di Fase, web radio libera e indipendente, noi vi lasciamo ancora una volta la musica di Italo, Angela e Giuseppe. Ascoltate ancora Radio Transizione di Fase.